Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Ci vuole l'urlo del riposo del guerriero questa mattina, così uggiosa, però insomma almeno qui è così. Però metteremo energia, cercheremo di farlo sicuramente qui a Radio 24 con il riposo del guerriero rotocalco domenicale, appunto, di Radio 24, che vi accompagna fino alle 12 e che vi fa vincere anche i premi, lo sapete, lo diciamo subito. Alle 11.30 infatti c'è il mistero in 24 minuti che vi aspetta, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sulla feltrinelli.it. E per riuscire a portarsi a casa il premio bisogna risolvere il mistero ascoltando gli indizi musicali che vi proporrò. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Però la settimana scorsa siete riusciti a portarvi a casa ben 1000 euro. Chissà se sarà così anche questa settimana. La risposta può essere una delle notizie della settimana, appunto, oppure un personaggio. Per prenotarvi fatelo subito: 800 24 00 24, ve lo ripeto, 800 24 00 24. Vi do anche l'indirizzo di posta elettronica guerriero@radio24.it, ma anche il numero per gli sms, perché le vostre domande oggi più che mai saranno ben accette, e non soltanto quelle, anche i commenti. Ormai vi piace commentare il programma, a me fa piacere ricevere i vostri messaggi, e le domande, dicevo, potranno essere poste con gli sms, perché so che avrete molte curiosità riguardo l'argomento che sarà un po' il fil rouge della puntata di oggi. Il numero per gli sms è questo: 349 238 6666, e l'argomento non ve lo racconto io, lo faccio raccontare da una voce straordinaria. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Certo, la voce straordinaria di Mina e poi la voce sua dentro, tanto straordinaria, di Alberto Lupo, in questa accoppiata vincente che parla di parole proprio che vanno usate, ebbene, non è sempre facile. Oggi parliamo di comunicazione. Comunicare non soltanto con le parole, si può comunicare con i gesti, si comunica con la voce, e ci sono insomma molti modi per farlo. Ma innanzitutto partiamo da qualcosa, proprio dalla comunicazione in sé. Gianni Di Giovanni, un piacere, buona domenica. Buona domenica Stefano, a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, ci sono molte cose da dire per presentare Gianni Di Giovanni. Cominciamo con direttore delle relazioni esterne di importanti multinazionali operanti nel campo delle telecomunicazioni, oggi vicepresidente comunicazioni esterne ENI, definito dalla rete addirittura il re della conferenza stampa. Ma questa è stata una butade, uno scherzo di un amico e collega che lavora a Repubblica, che durante una conferenza stampa che ho sempre cercato di organizzare in maniera un po' innovativa, un po' significativa rispetto al normale sistema del manager di fronte ai giornalisti che parla e che racconta le sue cose, che ascolta le domande, mi definì in questo modo perché insomma c'era un po' di creatività dietro quel tipo di operazione. È difficile infatti organizzare delle conferenze stampa creative dove magari i giornalisti alla fine riescono anche ad applaudire al posto di annoiarsi, come purtroppo a volte succede. Gianni Di Giovanni a quattro mani insieme a Stefano Lucchini hanno scritto Niente di più facile, niente di più difficile. Manuale, finalmente aggiungerei io, pratico per la comunicazione. Di questo parliamo tra pochissimo. Gianni, ti chiedo di restare con noi, ci sono gli aggiornamenti sul traffico e poi continuiamo. Strade in diretta. Prestate attenzione sulla 4 Milano-Brescia, ci sono tratti allagati in entrata Capriate sulla carreggiata verso Milano e continua a piovere su gran parte delle regioni nord-occidentali e sul medio versante tirrenico. Vi invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione e a moderare ulteriormente la velocità. La nebbia poi riduce ancora la visibilità sull'autosole tra Rioveggio e Roncobilaccio, sulla 14 Adriatica tra Gioia del Colle e Mottola, visibilità ridotta anche sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo fra Tornimparte e Assergi. Infine una notizia dalle città: a Torino per lavori il servizio della metropolitana è sospeso per l'intera giornata, in alternativa si può utilizzare la linea speciale Metrobus sul percorso Fermi-Porta Nuova. È tutto, a più tardi. Il riposo del guerriero. Allora Gianni, vediamo di cominciare a parlare, a definire in qualche modo la comunicazione e il manuale soprattutto a chi si rivolge, soltanto agli addetti stampa per esempio che si occupa di questo o anche semplicemente a chi vuol conoscere il mondo della comunicazione? Allora seguo esattamente l'indicazione che tu mi hai dato, oggi comunicazione è tutto, diciamo, viviamo immersi in un mondo di comunicazione, in un mondo di segnali, in un mondo di informazioni, tutto ci arriva. C'era una bellissima canzone dei Police un po' di tempo fa che si intitolava Too Much Information, è quello che noi in questo momento forse stiamo assistendo, alla canzone di una ventina d'anni fa, e che da qualunque posto noi siamo posizionati riceviamo tutta una serie di stimoli, tutta una serie di indicazioni che poi dobbiamo decodificare, e questo un po' vuole essere il nostro manuale per rispondere alla tua seconda domanda. Abbiamo scelto questo, di fare questa operazione perché volevamo descrivere un po' il nostro lavoro e volevamo descrivere un po' l'esperienza che abbiamo fatto in questi oltre 25 anni immersi in un mondo che è, come dire, ricco di complessità e sempre più complicato, dicevamo prima. Diciamo, l'intenzione era quella di mettere a disposizione di manager, imprenditori, comunicatori, ma anche studenti o appassionati di comunicazione, persone che in qualche modo si avvicinano al mondo della comunicazione soltanto così per curiosità, tutto quello che è l'esperienza nel mondo del lavoro aziendale e soprattutto quello che stiamo facendo in questo momento, che è un progetto molto innovativo nel campo di internet per un'azienda multinazionale e molto diffusa nel mondo, che è Eni. Certo, tra l'altro tu parlavi proprio di web adesso, mi viene in mente questo, che come dici giustamente di comunicazione ce n'è tanta, probabilmente ce n'è troppa anche da un certo punto di vista, tant'è che molte informazioni ormai ci passano attraverso, quasi non le sentiamo più, entrano da un orecchio e escono immediatamente anche dall'altro. Succede che la rete ci offre tantissime informazioni e forse un manuale così potrebbe servire anche per cercare di capire come funziona l'informazione e quindi come poterla anche filtrare, cioè capire quando quello che si legge è da valutare in un modo come vero, diciamo così, piuttosto che da valutare come attenzione, qui vogliono dire una cosa diversa da quella che in realtà c'è, o mi sbaglio? Guarda, no, ci sono anche un po' di trucchetti del mestiere che servono un po' per capire da dove arrivano un po', se vuoi, anche le false notizie o quelle che si chiamano operazioni di comunicazione e che poi vogliono portare il lettore o il telespettatore o il navigatore, in questo caso, dalla parte di chi vuol fare questa informazione, ma non sempre spiegando esattamente, esatto, quello che succede. Certo. Quindi c'è una sorta di, se vuoi, anche un po' indiscreto rispetto a tutta una serie di eventi, e per questo abbiamo chiamato un po' di amici, anche loro comunicatori di importante realtà, che vanno dalla sanità piuttosto che la politica, piuttosto che le tecnologie, a raccontarci delle operazioni di comunicazione che sono state fatte nel passato, come sono state gestite, quali risultati hanno portato e soprattutto cosa dovevano magari far risplendere o magari nascondere. Ecco, anche perché infatti il libro alla fine riporta molte testimonianze, poi ci sono anche dei post-it, posso chiamarli così perché sono evidenziati in giallo, che sono delle regole, diciamo dei... come posso dire, dei piccoli, degli appunti, ecco, che... sì, dei piccoli bignami. io non so sì. Quando andavi a scuola tu, io quando se c'erano già, ma quando andavo a scuola abbiamo io la stessa età, per ecco, cui ecco questi bellissimi, questi straordinari scialuppe di salvataggio che erano il bignami che ti consentiva in pochi minuti dei riassuntini, ecco. Esatto, per capire di che cosa si parla molto più diffusamente all'interno del capitolo. Lo abbiamo fatto anche un po' perché, ripeto, l'attività, quello che volevamo era rendere questo libro pratico, un po' più facile da consultare e un po' più utile dei tanti libri che sono usciti sulla comunicazione, e peraltro noi, sia Stefano Lucchini che io, non siamo nella condizione di impalcarci a docenti universitari che raccontano di comunicazione, insomma. Ecco, ma io vorrei farti qualche domanda così che può interessare gli ascoltatori che magari non si occupano di questo, anche se secondo me conoscere il mondo della comunicazione oggi è fondamentale per conoscere quello che ci sta attorno a tutti i punti di vista. Ma detto questo, quando per esempio siamo di fronte a qualcuno che ci fa una domanda difficile, tocca un argomento scomodo, magari qualcosa alla quale non possiamo rispondere o non ne conosciamo proprio la risposta oppure non preferiamo insomma tacere, com'è che possiamo comportarci per fare una bella figura? Tu cosa consiglieresti di fare? La prima cosa da fare è non eludere la risposta e non dire no a questa risposta io non posso rispondere o non voglio rispondere. Bisogna, come dire, affrontare l'argomento prendendolo un po', diciamo, dalla lontana, un po' distante, cercare di raccontare gli scenari, cercare di mettere dentro qualche numero, qualche elemento di informazione un po' più didascalica per dare qualche cosa in pasto al nostro intervistatore, sorvolando poi il tema centrale, magari cercando di far capire che non sono ancora i momenti, non è ancora il momento giusto, non sono ancora i tempi maturi per poter dare una risposta puntuale e precisa, ma che certamente siamo in grado di poterla dare da qui a qualche tempo. Questa è una delle tecniche che peraltro noi raccontiamo all'interno del nostro libro, che si può usare per cercare di non eludere, ma circoscrivere quello che può essere un tema spinoso e che non vogliamo affrontare. Certo, perché noi comunichiamo comunque al di là che si sia o meno un'azienda, anche come persone abbiamo a che fare sempre con altri, e quindi il comunicare è importante anche da questo punto di vista. E l'altra mia curiosità era questa, noi ormai siamo abituati, guardando la televisione, a seguire le conferenze stampa, quelle sportive per esempio ce ne sono fin troppe anche lì, però ci sono anche quelle politiche, ormai quelle dedicate anche ai fatti di cronaca. Siamo abituati ad ascoltare, una volta non era così, la televisione non proponeva le conferenze stampa, oggi invece sì, e quindi siamo partecipi un po' come i giornalisti. Secondo te si fanno ancora molti errori in queste conferenze stampa? Ci sono delle cose che continuano a essere commesse come errore proprio di sul come affrontarle, oppure no, ormai sono tutti diventati bravi? Beh, devo dire che il livello di ormai di pratica nella gestione delle conferenze stampa, sia dal mondo sportivo, soprattutto dal mondo sportivo, che nel contesto politico è abbastanza elevato. I professionisti della comunicazione stanno un po' dappertutto e quindi ovviamente loro non possono che preparare adeguatamente chi sta dall'altra parte del tavolo e che deve rispondere alle domande. Certo, come dicevi tu, è abbastanza curioso che venga ripresa in televisione e che la gente la guardi una conferenza stampa, che invece dovrebbe essere un momento per addetta ai lavori, no? Per addetta ai lavori, certo. sì, un po', diciamo, un po' più chiuso. È il momento, diciamo, è la grande officina nel quale poi si realizza il prodotto che poi tutti leggiamo sui giornali o vediamo in televisione. Però anche qui torniamo da dove mi avevi Siamo partiti, prima sì. partiti, cioè il re della conferenza stampa dell'amico di Repubblica che mi aveva definito in qualche così. Modo battezzato così. Sì. Diciamo che c'è una necessità certe volte, appunto, di dare una rilevanza maggiore al momento di conferenza stampa, spettacolarizzarla per dare un significato che vada un po' oltre le parole che si dicono e i concetti che si spiegano. Si vuol far vedere l'umanità, la professionalità, l'importanza di chi sta dall'altra parte, appunto, dicevo, del desk, è che deve rispondere. Certe volte anche un po', se vuoi, si crea un evento all'interno della conferenza stampa, ovvero conferenza stampa per raccontare un nuovo palinsesto di una televisione, di una specifica televisione, viene invitato un personaggio magari del mondo dello spettacolo, sì, che lì per lì come dire, fa una sua performance, come dire, inventa qualcosa per le telecamere e per i taccuini, e con questo in qualche modo si integra, si spettacolarizza, si rende gradevole come dire, un evento che, come dicevi tu, era normalmente per gli addetti ai lavori. Esattamente, e poi si può andare anche al di là di quello che poi si leggerà sui giornali. Ecco perché ritengo che sia importante conoscere i meccanismi della comunicazione, proprio perché anche senza saperlo ne facciamo parte quotidianamente. Grazie Gianni Di Giovanni. E grazie a voi. Che insieme a Stefano Lucchini hanno scritto Niente di più facile, niente di più difficile, manuale pratico per la comunicazione. Sapete la novità? Ho comprato la nuova Citroen C3 approvata a 4 ruote. Euro 5, ESP, 5 anni di garanzia e al quarto anno in Citroen me la valutano il 10% in più rispetto alla quotazione 4 ruote. Wow, colore? Boh. Una Citroën così puoi comprarla a occhi chiusi. Scopri i 18 modelli della gamma Citroën approvata a 4 ruote. Adesso il tuo usato vale il 10% in più. Scade il 31 dicembre. Info su citroen.it. Ti aspettiamo anche domenica 21. Che preziosa visita è questa. E presto il mormorio si fa parole. Voci e parole d'Italia. Solo emozioni in due CD. Io mi scuso per il vento. San Lorenzo. La madre. Chi sono? Se te lo dico io tu puoi stare tranquillo. Porco cane, un leone e lo comasa. Mortacci, tu a me stai bene. Felicità. Un popolo è ancora libero. Il rondone. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Voci e parole d'Italia. Pura magia in due CD. Nei negozi e nelle edicole. Quando sto vicino non mi guardate. Non mi sposi più. Ma Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai. Pucci, tu sei il solo. Il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia, con il servizio rapporto classificato, ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un clic. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it. Numero verde 800 425 325. Nel silenzio scorre il tempo, amico. L'una dopo l'una. Ecco, il tempo è giunto. Dalle piccole botti di legni pregiati, le prime gocce per il mastro distillatore. Sì, ecco le 18 lune. Grappa le 18 lune di Marzadro. L'arte di saper aspettare. Vi parla il vostro comandante. Dal 30 novembre al 2 dicembre decollerà in Fiera di Roma Italy Airspace Expo, salone internazionale dedicato ai settori aviazione civile, business e militare, ai sistemi e mezzi di difesa aerea, terrestre e spaziale, ai settori logistica, infrastrutture, apparecchiature e servizi per gli aeroporti, all'area di ricerca, tecnologia e ingegneria per l'aviazione, agli elicotteri e aeromobili. Prendi al volo l'occasione di far partecipare anche la tua impresa. Allacciate le cinture e si parte per Fiera di Roma! Dal 30 novembre al 2 dicembre. www.fieraroma.it. Buongiorno, sono Christian Boiron, presidente del gruppo Boiron. Il nostro medicinale per i sintomi influenzali è numero uno in Francia ed è presente in 60 paesi nel mondo. Sai perché? Perché risolve i sintomi rapidamente. È omeopatico e quindi senza effetti collaterali, così può essere utilizzato da tutti. Parlane con il tuo medico o il tuo farmacista. Scegli anche tu Boiron, leader mondiale dell'omeopatia. Azienda familiare da oltre 80 anni, con più di 4.000 persone nel mondo. Sintomi influenzali? Prova l'omeopatia. Ha toccato il suolo lunare. Sono le 22:17 in Italia. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questa è un'impresa frutto di intelligenza, lavoro, coraggio. Ci sono imprese come questa che hanno fatto la storia. E c'è una storia, la nostra, che è fatta di piccole e medie imprese, ma che hanno fatto grande la nostra economia, grazie a lavoro, volontà e coraggio. E sempre accanto a loro, noi, la Confesercenti, da 40 anni, al servizio delle imprese. Questo annuncio è dedicato a tutti i lettori di Il Sole 24 Ore che hanno un iPad o un iPhone. Se non l'avete già fatto, andate sull'App Store e scaricate gratis la nuova applicazione del Sole 24 Ore. Tutti i giorni potrete sfogliare il quotidiano dalle 7 del mattino. Oggi l'accesso al quotidiano è offerto da Repower, l'energia che ti serve. Il riposo del guerriero. Arrivano anche le vostre curiosità, continuate a scriverle al 349-238-6666. Parleremo anche con altri ospiti di come comunicare, per esempio, di fronte a una situazione come un funerale o un matrimonio. Ci sono quelle conversazioni così che bisogna per forza sostenere, non si sa mai che cosa dire. Come possiamo comportarci? Cercheremo di scoprirlo. Poi c'è anche la comunicazione non verbale, sicuramente toccheremo anche questa. Ma c'è anche quel tipo di comunicazione che ci fa sorridere perché in qualche modo cade in errore sostituendo una parola con un'altra. C'è un personaggio fra tutti, se prima abbiamo sentito Gianni Di Giovanni, così definito il re della conferenza stampa, c'è anche il re del quiz, ma anche il re delle gaffe che nessuno potrà scordare. Sai cosa sono i trebbi? No! Dimmi cosa sono i trebbi, è una parola della lingua italiana. Dicesi trebbo. No, i trebbi. Con cosa mangi? No, Mike, i rebbi, eh. Ah, sai, i rebbi. Che ignorant, che ignorant. La voce poi di Davide Tortorella che corregge come sempre Mike, che il gaff ne faceva tante, forse alcune pensate, altre no, però insomma le gaff erano quello che tutti si aspettavano di sentire almeno una volta. Al telefono Antonio Caprarica. Caprarica, buona domenica. Buona domenica a lei e ai nostri ascoltatori. Ecco, innanzitutto grazie per essere tornato a Londra. Londra non è tale senza i suoi servizi, lo dico subito. Ecco, non credo grazie. Che... Non è credo... molto gentile, dobbiamo informarne la regina comunque. Va bene, adesso è anche su Facebook, però so che non accetta le amicizie. Ovviamente non potrebbe dialogare con chi le scrive, naturalmente lascerebbe fare i suoi segretari, ma per una elementare ragione di sicurezza e di riservatezza non si può andare oltre la registrazione delle opinioni dei simpatizzanti o antipatizzanti, anche se da quanto ho capito il palazzo si preoccupa di cancellare a stretto giro di posta. Infatti glielo stavo chiedendo, se fosse vero che appunto alcuni messaggi vengono così, diciamo, epurati. Sono francamente offensivi e quindi è assolutamente comprensibile che vengano epurati, perché ci sono anche i messaggi degli antipatizzanti, di quelli che si professano repubblicani e quindi invitano Sua Maestà a fare le valigie. Qualcuno lo fa con un tono un po' troppo brusco e si capisce, abbastanza ragionevole, che a questo punto la gente di corte si preoccupi di purgare il sito della regina. È anche giusto così. Allora, io l'ho voluta sentire perché tra i tanti libri che ha scritto c'è un saggio dell'anno scorso chiamato, intitolato Papaveri e Papere, perché le gaffe fanno parte della nostra vita, insomma, di chi fa questo mestiere, perché quando si fa il conduttore radiofonico o televisivo, comunque sia, la gaffe è sempre lì pronta a farsi viva, sia invece chi ha un ruolo pubblico, per esempio un politico, uno sportivo, così insomma, siamo sempre pronti a cogliere nel momento del fallo. Innanzitutto perché diciamo gaffe? Perché si usa questa parola... Gaffe, come sappiamo tutti, è parola di derivazione francese, nel senso in cui noi lo adoperiamo oggi, cioè come errore, come voce dal sen fuggita che provoca imbarazzo, talvolta provoca, come dire, scoppi di ilarità, tra l'altro mette in serio imbarazzo chi la pronuncia. L'origine è, per la verità, in questo senso l'origine francese, ma in italiano gaffa è quella speciale pertica che con biforcata che si adopera per agganciare le barche, e quindi c'è tutto sommato anche nell'uso italiano del termine un riferimento a quello che la gaffe rappresenta. Rappresenta un errore, rappresenta un momento di confessione o della propria ignoranza o della propria scarsa sensibilità. Nelle gaffe che io ho raccolto, ho chiamato questo libro Papaveri e Papere proprio con esplicito riferimento non solo alla vecchia canzone della nostra infanzia, ma metaforicamente ai papaveri, cioè agli uomini del potere, ecco, gli uomini del potere che sono insidiati da queste papere, e talvolta particolarmente gravi, perché vengono da persone alle quali noi attribuiamo una funzione o un valore speciale, capi di Stato, pensatori, giornalisti, filosofi, conduttori televisivi, artisti, sportivi, insomma i potenti, ecco, i papaveri sono i potenti di cui io mi sono occupato e che fanno le gaffe né più né meno come noi normali mortali. Poi oggi nell'epoca di internet con YouTube e quant'altro è anche difficile riuscire a sfuggire, perché nel momento in cui la gaffa avviene magari anche in una sede privata, basta un telefonino che faccia una ripresa, il video poi va su internet e quindi poi tutti sapranno dell'errore. Come ha raccolto queste gaffe? Nel senso che sono tante, sono elencate e quindi è andato a cercarle, se le segnate mano a mano che le ha scoperte nel corso della sua attività? Quelle di cui sono state testimoni ho preso nota, ma in realtà l'idea di questo libro mi è venuta anche quella da una conversazione radiofonica con una trasmissione di Radio 2, sì. Nel corso della quale avevo raccontato alcune delle gaffe di cui io stesso sinceramente sono stato protagonista. Se vuole gliene regalo subito una. Come no? Il mio primo incontro con il principe Carlo, al quale fui presentato nel remoto anno di grazia 1998, all'inizio la principessa Diana, per capirci, era morta da pochissimi mesi. Carlo è una persona molto gentile quando gli viene presentato qualcuno e quindi chiede sempre cortesemente, come è stato abituato a fare, lei di che cosa si occupa. Io gli risposi: io sono il corrispondente della televisione italiana da Londra, convinto che sarebbe passato oltre al prossimo ospite, alla prossima domanda. Certo. Lui invece, incuriosito dalla faccenda, mi disse: ah sì, e di che cosa si occupa particolarmente qui a Londra? E naturalmente la mia risposta fu secca, ma immediata: ma Vostra Altezza Reale, soprattutto mi occupo di lei, perché per le ovvie ragioni, e mentre lo dicevo avrei voluto sprofondare sottoterra, mi occupo di lei e aggiunsi: non è facile vendere la sua immagine agli italiani. Il principe mi guardò con aria sbalordita, trovò la forza di chiedermi perché, e lì fu salvato da mia moglie che intervenne dicendo: ma no, perché sa, le italiane sono assolutamente pazze di lei. Ecco, in questo caso mia moglie ebbe molto più sangue freddo del sottoscritto. Ecco, quindi un po' Reagan forse era bravo a ribaltare la frittata e a dare delle battute, delle stilettate anche ai giornalisti, cercando di dire l'opposto di quello che pensavano di ascoltare. Beh, ma lì c'è una famosa, Reagan trasformava le gaffe in battute, e anche le situazioni gli offrivano spunti, era un uomo dotato di una notevole sense of humor, per cui ad esempio nel corso della campagna elettorale, quando qualcuno gli fece presente che insomma era molto più anziano del, certo, suo concorrente Monda, e lui brillantemente rispose: beh, non possiamo farne una colpa al mio antagonista del fatto di essere più giovane, naturalmente. Quindi è riuscito a ribaltare completamente la situazione. Esatto. Tra l'altro rivinse per di più, per cui di conseguenza. Per di più rivinse. Uno che invece non riusciva a ribaltare nulla, anzi affondava nelle sue gaffe, era, come noto, George W. Bush. Insomma, anche il vecchio Bush padre, sì, ha un bel record di gaffe, perché si ricorda una gaffe di George Bush padre, vicepresidente, che appunto visita Auschwitz e se ne esce con una esclamazione, dice: beh, certo, fa impressione pensare che da qui se ne volassero in cielo tante migliaia di ebrei, che non era precisamente il colmo della sensibilità. Sì, diciamo. Bush è stato anche peggiore, perché l'uomo che è arrivato in Brasile e messo da Lula davanti a una carta geografica del Brasile l'ha guardato e ha detto: wow, è grande il Brasile. Si vede che a scuola non gliel'avevano mai insegnato. Quello forse è un problema. Noi che da piccoli stavamo sempre a studiare la geografia, ma a quanto pare resta sempre una materia importante e guai ad abolirla. E tra le tante gaffe ci sono anche i politici italiani. Non li citiamo in questo momento, direi proprio di non farlo, in questo momento storico, ma... Anche perché è un momento segnato da una sequela di gaffe. Proprio per quello, quindi potrebbe fare il secondo volume, diciamo così, del libro, magari destinato soltanto all'Italia e alla sua politica, ma ci sono anche sportivi, ovviamente c'è tanta televisione, la televisione offre sempre spunti. Io ricordo Eranna Falchi che a Sanremo disse: sotto la gonna mi sta succedendo di tutto? È proprio lei sì. Si riferiva al microfono, sì. Ma naturalmente gli spettatori immaginarono chissà che. Beh, ma le signore della televisione ne hanno dette tante. Maria Teresa Ruta è entrata nell'immortalità per avere dichiarato che era una collezionista di figurine e disse: una volta avevo due figurine di Riva e grazie a loro mi sono fatta tutta la Juventus. Certo, intendeva dire tutta la squadra in figurina. Sì, ecco, immagino proprio di l'album dei calciatori. Peggiore la Clerici, forse lì bisognerebbe bippare la sua sì, non frase. Non possiamo citarla, cioè, perché lei appunto una volta disse: io non posso vivere senza il ca, e poi sbagliò la finale della parola. Ha detto quello che non avrei dovuto dire. Lì non si sa, capisce bene se Freud ci ha messo lo zampino o meno, ma potrebbe anche essere. Una delle chiavi di lettura della gaffe, come lei sa, Freud si è occupato della gaffe, certo, nella psicopatologia della vita quotidiana, e la sua conclusione era appunto che la gaffe tradisse o sentimenti di aggressività o sentimenti di sincerità repressa, insomma in qualche modo desse sfogo a pulsioni nascoste del nostro subconscio. Ecco, trovo straordinario il capitolo invece, che non è proprio dedicato alle gaffe, ma agli errori che si commettono quando ci si permette di criticare qualcuno, perché spesso insomma è capitato tante volte che grandi artisti venissero proprio esclusi dall'essere bravi da parte di critici che li consideravano invece così incapaci. In realtà poi si sono rivelati grandissimi artisti. E questo forse serve a capire quanto la critica è importante, ma bisogna saperla anche prendere, insomma, bisogna ascoltarla. E poi rivela anche un'altra cosa, in verità, che all'origine della gaffa può esserci anche un altro sentimento, che è l'invidia o l'antagonismo. E in questo senso la gaffe finisce col dare ragione appunto a Freud, come espressione di sentimenti e come espressione di un subconscio che ogni tanto trova una via di fuga verso l'esterno e lì si appalesa. Ad esempio, quando Tchaikovsky, che è un genio musicale, definisce un altro genio come Brahms un bastardo senza talento, e la sua musica roba caotica e secca, e a che cosa si deve pensare? È naturalmente un gigantesco errore, una gaffe nella comprensione di un grande artista, ma che cosa lo origina? No? Ma ce ne sono innumerevoli nel campo della pittura, ad esempio, non so, Manet che giudica il giovane Pierre Auguste Renoir e dice: non ha proprio talento quel ragazzo, ditegli per favore di smetterla. Meno male che non l'ha fatto, certo. Meno male che non l'ha fatto, no? Assolutamente. Del resto il nostro Sordi a Milano al Piccolo è stato rifiutato perché gli hanno detto: con l'accento romano non andrai mai da nessuna parte. In realtà poi ben sappiamo cosa ha fatto. E tra tutte le gaffe scritte nel libro ce n'è una che si ricorda in modo particolare, che l'ha divertita più delle altre? Quelle che mi divertono pazzamente e che secondo me meritano al Duca d'Edimburgo il posto numero uno di gaffe mondiale sono quelle del principe Filippo. Filippo è assolutamente straordinario. Poi ha delle costanti nelle gaffe, perché l'oggetto delle sue gaffe sono sempre gli stranieri, le donne, i disabili, cioè non è un uomo dotato di grande sensibilità sociale, come è noto, per cui ne inanella una sopra l'altra, ma l'ultima l'ha fatta e non è ancora registrata nel libro, dovrò rimetterla senz'altro nella ristampa, appena ne verrà fuori, nella prossima edizione, perché già di ristampa ne abbiamo fatte tantissimo di questo libro, che è stato un grande successo del 2009. E alla visita papale in Scozia, che cominciava dalla Scozia nello scorso settembre, il governo di Edimburgo, il governo autonomo scozzese, aveva preparato per proprio l'arrivo del Papa tante sciarpe con i colori, i famosi colori blu e verde, proprio della città di Edimburgo. E in attesa che il Papa arrivasse, il Duca si è rivolto a una signora che è anche la presidente del Partito Conservatore in Scozia e le ha chiesto, sorridendo: ma non è che lei sotto la gonna ha anche le mutandine con lo stesso tartan della città di Edimburgo? Era esattamente il tartan che avrebbe poi ornato le spalle del pontefice. La signora è scoppiata a ridere. Meno male, meno male. In giro. Meno male. Ma la cosa buffa è che è una fissa del Povero povero Filippo, perché è andato in Canada a una riunione del World Wildlife Fund di cui lui è presidente onorario, ed era una riunione dedicata alle ragioni sacrosante degli animalisti e quindi contro la caccia, contro le pellicce eccetera. Ha incontrato una bellissima giornalista di moda, ha detto: lei è venuta qui con il cappotto di pelliccia? E quella l'ha guardato strano e dice: ma come, cioè, questo è un meeting contro le pellicce? Certo. Beh, magari allora avrà delle mutandine di pelliccia sotto la gonna, cioè, quindi è una fissa quelle delle mutandine per il principe Filippo. Del resto sappiamo che l'uomo è sempre stato un rubagonnelle. È proprio così, e in effetti poi sono tantissime tantissimi aneddoti raccontati. Io però le chiederei, se vorrà tornare a essere nostro ospite, in una delle prossime puntate del Riposo del Guerriero ci occuperemo dell'Unità d'Italia. 150 anni, lei da poco ha pubblicato C'era una volta in Italia, in viaggio fra patrioti, briganti e principesse nei giorni dell'Unità, e dove racconta insomma perché siamo così, perché alla fine dopo 150 anni ci ritroviamo a essere forse come 150 anni fa da un certo punto di vista. Molte cose naturalmente, grazie al cielo, sono cambiate. Intanto il nostro benessere nazionale, siamo diventati un paese ricco da paese poverissimo che eravamo, ma dal punto di vista del carattere nazionale molti dei guai di allora ce li siamo portati dietro. Io ho cercato di ricostruirli guardando alla gente comune più che agli eroi della leggenda, più che agli eroi della mitologia nazionale, e credo di aver individuato anche lì le ragioni di più di qualche gaffe che ci perseguita ai giorni nostri. E le vorremmo conoscere. Grazie ancora Antonio Caprarica. Grazie a voi e buona domenica. Il riposo del guerriero. Siete alla guida di una Porsche 911. Lei risponde ai vostri comandi, ridisegna la strada con una sportività sensazionale, un'emozione che vorreste non finisse mai. Fatela continuare. Realizzate un sogno con il Comfort Leasing. La 911 può essere subito vostra. Riconoscerete il suo valore oggi, ma anche nel tempo. Porsche vi garantisce infatti il 78% del suo prezzo anche dopo 18 mesi. Prenotate il vostro test drive e scoprite il Comfort Leasing su www.porsche.it/test drive. Strade in diretta. Continua a piovere su gran parte delle regioni nord-occidentali e sul medio versante tirrenico. Prestate attenzione sulla A4 Milano-Brescia perché ci sono tratti allagati in entrata a Capriate sulla carreggiata verso Milano. E proprio all'interno del capoluogo lombardo la Polizia Municipale segnala alcuni tratti allagati, specie nella zona nord della città. Guidate dunque con la massima prudenza. Infine, la nebbia riduce ancora la visibilità sull'autosole tra Rioveggio e Roncobilaccio e poi sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo fra Torninparte e Assergi. È tutto, ci risentiamo più tardi. Promo 24. Il sole può diventare la fonte di energia della casa, dell'ufficio, dell'azienda in cui si lavora. Per questo installatori, impiantisti e utenti finali devono scegliere moduli fotovoltaici di alta qualità. I moduli fotovoltaici Solar Day trasformano la luce solare in energia elettrica con un rendimento in grado di garantire negli anni il rientro dell'investimento. L'impiego dei pannelli Solar Day per la produzione di energia rinnovabile è garanzia di qualità e producibilità, poiché sono interamente prodotti in Italia e offrono una resa energetica sempre ottimale, assicurando nel tempo la fornitura continua di energia elettrica. Tutte le informazioni su www.solarday.it. Il riposo del guerriero. 10:47 minuti, parliamo di comunicazione oggi nel riposo del guerriero. Abbiamo parlato prima con Caprarica di presidenti americani. Vi faccio ascoltare anche un momento di un discorso di Barack Obama. Eccolo qui. Feels like science and technology and engineering and math. We cannot sustain. Oops. Was that my Allora succede questo, che il presidente sta parlando, sapete che davanti c'è lo stemma presidenziale che cade, all'improvviso cade con il suono che avete sentito, e allora il presidente dice: era il mio, è tutto a posto, comunque voi tutti sapete chi sono io, quindi non c'è bisogno dello stemma davanti, però sono certo che dietro le quinte c'è qualcuno che in questo momento sarà molto nervoso e quindi si preoccupava più della persona che aveva attaccato male lo stemma presidenziale del fatto in sé, anche perché non è successo niente di male. Elena Doni, buona domenica. Buona domenica a tutti. Ecco, parliamo di un libro che hai scritto, che è Parole che funzionano, convegni, tavole rotonde, esami, colloqui, feste, funerali e matrimoni, teoria e tecnica del comune parlare in pubblico senza doversene pentire. Un lunghissimo sottotitolo però per spiegare i contenuti. Ho voluto cominciare così perché Obama ha dovuto improvvisare un piccolo discorso cercando di far ridere anche chi assisteva alla conversazione, anche perché al discorso, anche perché insomma è sempre presidente degli Stati Uniti, e come diceva Mark Twain, in genere mi ci vogliono almeno 3 settimane per preparare un buon discorso improvvisato. Questo è molto americano, cercare di mettere sempre la battuta che faccia sorridere, e devo dire Obama è stato bravissimo quando gli è caduto il simbolo presidenziale, perché come se nulla fosse, whoops, che è la parola che gli americani usano quando gli cade qualche cosa in terra, quando inciampano così, e invece non era lui che inciampava, bravo comunque, ma si sa che Obama è molto bravo a parlare. Senti Elena, allora io volevo parlare di funerali e matrimoni, nel tuo libro si discute di tante cose, ci sono i colloqui, gli esami, che sono quelli che dobbiamo affrontare nella vita almeno una volta, però purtroppo dobbiamo affrontare anche i funerali e talvolta anche i matrimoni, gli altri magari non i nostri, quando il nostro forse è anche più facile, ma è un po' più difficile invece sostenere quelle conversazioni che vanno sostenute per forza, non si sa mai che cosa dire, come si fa? Bisogna prepararsi, semplicemente bisogna studiare, fare i compiti a casa, non si può improvvisare. Nei matrimoni va a finire che poi si grida viva gli sposi, ai funerali ho sentito dei ricordi miseri, proprio sciatti, poveri, non affettuosi. Invece no, bisogna fermarsi un attimo, riflettere sulla partenza di una persona cara, una persona stimata, e nei matrimoni cercare di fare un augurio credibile. E proprio nel libro ho citato una cosa che ho trovato su un manuale inglese in cui si proponevano vari discorsi per matrimoni a seconda della circostanza, cioè un primo matrimonio, oppure lui è divorziato o vedovo, lei no, eccetera, e si arriva alla fine in cui si arriva al terzo matrimonio di entrambi o di uno, di due, eccetera, e a me veniva da ridere quando ho letto il titolo. Invece è un discorso bello, serio e commovente, in cui un amico dice: finalmente vedo la possibilità che voi siate felici, ne avete molto bisogno perché avete attraversato momenti difficili. Ecco, quindi un certo affetto, una riflessione dalla parte di chi si sposa o di chi purtroppo se n'è andato. Ecco, non è sempre facile prepararsi a queste cose, però tu lo consigli magari di prepararsi un vademecum che poi va bene sempre a questo punto. Sì, più o meno, poi lo si adatta, ma insomma, comunque pensarci prima, è giusto dedicare attenzione e rispetto a qualsiasi evento accada, anche quando si inaugura una filodrammatica, una società sportiva, cercare di capire che cosa si vuole, che cosa si desidera, che cosa si propone, e quindi parlare a favore di, oppure appunto nel funerale in memoria di. Certo, io c'è invece un atteggiamento che non amo molto e che purtroppo si vede sempre di più in televisione. Mi ricordo quando la mia insegnante di canto un giorno mi riprese e tanto, perché cominciai uno degli esercizi con la mano in tasca e lei mi disse: mai la mano in tasca, tu affronti proprio un capitolo, una parte di un capitolo dedicato a questo, a questo atteggiamento. Ma sì, perché è una forma di rispetto. Credo è opportuno fare riflettere i ragazzi su questo, perché i ragazzi tendono, i giovani, i giovanissimi nelle scuole, eccetera, tendono a essere un po' stravaccati, diciamo, usando una parola che esprime il concetto. Anche perché quello che è successo, ed è una cosa di cui non molti adulti si rendono conto, che sono quasi scomparse le interrogazioni nelle scuole. Quando si veniva una volta interrogati, si doveva. Pronto, è sparita Elena Doni. Vediamo se riusciamo a recuperarla. È andata via la cosa. Io immagino che insomma volesse dire di quando si era interrogati e succedeva questo, che bisognava comunque avere una postura davanti al professore che ci interrogava. E molto spesso quando l'interrogazione era alla cattedra e non dal banco era più facile, perché se così eri capace di prenderti gli appunti, riuscivi a sbirciarli anche sul tavolo. E invece alla scrivania era molto più complesso, perché alla scrivania dovevi assolutamente avere una postura corretta, non potevi guardare se non il professore, e quando cercavi magari un suggerimento da parte dei compagni non era mai facile. E quindi era l'importanza di sostenere una postura e avere anche la voce adeguata, perché una voce ferma indubbiamente avrebbe rappresentato il conoscere la risposta alla domanda che veniva fatta. Enna Doni, non riusciamo ad ascoltarla, allora voglio farvi ascoltare un discorso molto famoso che arriva da Al Pacino. Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Ha ragione. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Facciamolo. Io però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. E questo era Al Pacino nel film Ogni maledetta domenica, un discorso che alla fine ha funzionato. Enna Doni, per concludere, purtroppo abbiamo pochissimo tempo. Ho visto, è successo una caduta di linea. Esatto. Allora, dicevi della scuola, scusami, che non ci sono più le interrogazioni. Io parlavo di postura e voce, che abbiamo forse disimparato ad avere quando dobbiamo parlare. E questo fa sì che se non si è un po' allenati, si è presi dal panico quando ci si trova di fronte a un gruppo di persone. E ho visto una ragazza, una giovane donna, che già era avanti negli studi all'università, che era presa dal panico quando doveva parlare e non riusciva a superarlo, le mancava la voce, restava senza fiato. Un'altra ragazza le ha consigliato una tecnica usata in teatro, quello di parlare a voce altissima, esercitarsi ovviamente parlando a voce altissima, perché il cercare di alzare la voce fa sì che in qualche modo si doma questa mancanza di fiato che può venire per l'emozione. C'è riuscita, adesso insegna a bambini molto piccoli e deve fare le periodiche relazioni ai genitori, cosa abbastanza emozionante. Ecco, grazie Elena, scusa, ti sentiamo malissimo e ti devo salutare, però ti ringrazio. Abbiamo colto quello che hai detto. Ricordo il libro Parole che funzionano, convegni, tavole rotonde, esami, colloqui, feste, funerali, matrimoni, e forse il consiglio che ci ha dato: dobbiamo cominciare a utilizzarlo. Il riposo del guerriero. Parliamo di comunicazione, abbiamo introdotto l'argomento, poi parlato di gaffe, di discorsi, quelli improvvisati, poi avete sentito, improvvisati non dovrebbero esserlo mai. E poi c'è anche la comunicazione che non si vorrebbe così far sentire, quella definita non verbale. Silvano, stasera c'è la conferenza su amministrazione e fusione. In qualità di contabile lei dovrebbe essere presente. Sì, è che stasera non posso. Non può? No, perché devo accompagnare mia mamma a prendere delle misure. Mentendo? Come? Sta mentendo, è molto chiaro. La posizione del corpo, i movimenti delle mani, tutto indica inequivocabilmente che lei sta mentendo. Tentativo maldestro. Purtroppo per lei la comunicazione non verbale parla chiaro. Bita, immagino che lei sappia cos'è la comunicazione non verbale. Certo. Davvero? Giuro. Sta mettendo anche lei? La comunicazione non verbale. No, stavolta è stato più facile, alle dita incrociate. Insomma, è complicatissimo, non possiamo neanche più parlare. Anna Guglielmi, buona domenica. Ciao. Buongiorno, ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Autrice del libro Il linguaggio segreto del corpo, la comunicazione non verbale, edito da PM. Allora, è vera questa storia delle dita incrociate innanzitutto? No, è molto divertente lo sketch che avete fatto. Era Camera Caffè. Sì, sì, è molto piacevole. E diciamo che non deve dare timore. Ricordiamoci che qualsiasi interazione tra due persone è comunicazione. un gesto o anche nessun gesto, l'immobilità assoluta è comunicazione, anche il silenzio è comunicazione. Una persona ferma che non ci risponde ci comunica. E quindi sì, è un bel guaio. Io mi permetto di sorridere, ho ascoltato con attenzione prima e mi sembra dicessi della mano in tasca durante l'esame. Esatto, no, ma anche in televisione no, a volte ormai si vedono conduttori che parlano con le mani in tasca o tutte e due una soltanto, anche cantanti che cantano con le mani in tasca. E io personalmente lo sopporto molto poco, ma è una cosa personale, non so gli ascoltatori. Ecco, però dobbiamo dire due cose. Un conto è l'educazione fondamentale, il rispetto e quanto si è detto era estremamente interessante. Un conto è andare a capire, noi cresciamo abituati a dire certe cose, seguire certi schemi e noi possiamo mentire con le parole, siamo bravissimi, diciamo quello che va detto, che ci obbligano a dire. È che il corpo è come una bestiolina, è in diretto contatto con le emozioni, quindi noi mentiamo, ma il corpo no. Certo. E quindi il corpo, mentre noi siamo intenti a fare altro, dire altro, lui scodinzola a modo suo e ci dice la verità. Ecco, ma la mano in tasca cosa può significare? Forse in apparenza sembra quasi supponenza da un certo punto di vista. Ecco, ma questo è da un punto di vista dell'educazione. Ecco. Ma la mano, lo diceva anche Freud, è stato citato prima, le mani parlano. Se noi guardassimo solo le nostre mani, capirebbero, ci tradiscono. Per cui, per non farci tradire dalle mani queste spione, noi le nascondiamo. Dove? Sotto il tavolo, in tasca, dietro la schiena. Le teniamo ferme. Certo, è un modo per... Posso permettermi di dire, sorridendo, che un ragazzo che va a superare un esame con una mano in tasca forse nasconde, perché in teoria si direbbe bugia, ma questo non si può... Forse nasconde il fatto, oddio, non sono così preparato. Non essere sufficientemente preparato. E spero che il professore non se ne accorga. Certo, e quindi nascondo la mano. Ma dalla mano possono passare ai piedi, però, perché i piedi anche dicono tantissimo. Sì, sì, perché i piedi indicano sempre la direzione verso cui la nostra testa vuole andare. Ed indico anche l'interesse che noi proviamo verso una cosa, una situazione, una persona. Per cui se noi guardiamo mentre abbiamo una persona di fronte a noi che ci dimostra interesse, magari ci sorride, ma ha il piede girato verso la porta, è il piede come una freccia. Allora noi sappiamo, ci hanno insegnato a mentire, siamo bravissimi, ma quel piede girato verso l'uscita vuol dire se appena smetti mi lasci io vorrei tanto uscire. Ecco, quindi tendenzialmente, per esempio, se fermiamo una persona per strada e la salutiamo, magari fermandoci a scambiare due battute, se la direzione dei piedi in quel momento viene cambiata, cioè la persona che stava seguendo la direzione opposta alla nostra in realtà gira i piedi verso di noi, vuol dire che è interessata ad ascoltarci. Se invece rimane, diciamo così, nella sua direzione, vuol dire che è interessata ad andarsene il più in fretta possibile. Diciamo che questo avviene in maniera inconscia, per quello è affascinante, certo. Si parla comunicazione, perché il corpo è interessato a proseguire un percorso. Se invece il corpo, ma indipendentemente dal fatto che noi ce ne accorgiamo, si gira e quindi gira anche solo il piede verso di noi, vuol dire che la persona ha piacere di fermarsi. Magari non è che non ha piacere, ma ha fretta, con la mente è focalizzata all'impegno che ha. E quindi se ne vuole e resta lì solo andare. Per educazione, certo. Per quel famoso discorso che si è fatto prima. Ecco, qui c'è un trucchetto, nel senso che quando ci troviamo così magari per caso con un gruppo di amici che si incontrano e vediamo una persona che ci piace, c'è un modo per capire se noi piacciamo anche a questa persona oppure no, forse guardando i piedi. Sì, è sempre lo stesso discorso, è molto vero. Perché inconsciamente diciamo che l'animale, la parte istintiva che è in noi, gira il piede, fa un gesto. Può darsi che la persona invece voglia mantenere un certo tono, non voglia far vedere, cioè che decida mentalmente di agire in un certo modo, ma è tradita dal piede. Se il famoso piedino si gira verso di noi, eh sì, quella persona può essere interessata a noi. Sì. Per cui dobbiamo comunque non guardare soltanto le mani, ma guardare anche i piedi. E secondo te, per chiudere, Anna, quando siamo di fronte a qualcuno per essere interrogati o ci viene chiesto qualcosa, dobbiamo esporre oppure comunicare. E secondo te la postura più corretta qual è? Diciamo che a livello parliamo sempre inconscio, sì, cioè il mio animale contro l'animale che mi sta interrogando. I due corpi, come due gatti o due animali, sentono l'apertura o la chiusura. Per cui se io sono in apertura, mani aperte, non ho nulla da nascondere, sono corretto, sono onesto, so quello che dico. D'altronde il gesto famoso Give Me Five della botta sulle mani, che abbiamo visto molto di moda ora, che viene dalla cultura afroamericana, era un modo per far vedere: io mi incontro con te e batto la mano contro la tua perché non l'ho chiusa e nascosta, non c'è un pugnale dietro. Se io ti mostro la mano, certo, mano pulita, e quindi un gesto di apertura, il corpo di chi ci intervista è rilassato, dice questa persona viene nella verità. Ecco, quindi questo è l'atteggiamento che più, diciamo, dovremmo cercare di mantenere. Sì. Se mano a mano lo perdiamo, vuol dire che in qualche modo il nostro corpo sta comunicando qualcos'altro e quindi dobbiamo stare attenti. Esatto, è importante, se noi ci accorgiamo che ci stiamo chiudendo, ma può essere perché abbiamo giustamente paura, timore, sì, può certo, darsi che stiamo fermando qualcosa e che l'unica competenza che non abbiamo in quel momento, però anche l'altro se ne accorge. Esatto. Quindi noi diciamo cose bellissime, però l'altro dice non so, questa persona non mi convince. E quindi perdiamo efficacia, purtroppo. Sì. Grazie Anna Guglielmi, buona domenica ancora, autrice del libro Il linguaggio segreto del corpo, la comunicazione non verbale, da PM. Strade in diretta. Continua a piovere su gran parte delle regioni nord-occidentali e poi fra Toscana e Umbria. Prestate attenzione sulla A4 Milano-Brescia perché ci sono tratti allagati in entrata Capriate sulla carreggiata verso Milano. La nebbia invece riduce ancora la visibilità sull'autosole tra Rioveggio e Barberino e poi sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo fra Torni in parte a Sergi. Infine traffico in aumento intorno a Genova, sulla A12 si formano code in uscita a Genova Est in entrambe le direzioni. Ed è tutto, ci risentiamo più tardi. Il riposo del guerriero. Ecco, abbiamo l'ospite che avrebbe dovuto usare la voce, invece usa l'occupato del telefono. Allora, io ne approfitto per farvi ascoltare un altro frame, un altro momento di Camera Caffè, dove si parla ancora di linguaggio non verbale. Sono però. Ah, ci sei, scusami, perdonami. Sì, ah, ecco, no, no. Era un altro occupato. Era un altro occupato, certo. Era la voce di qualcun altro, perdonami. Esatto, infatti, figurati. Ma oggi comunichiamo e quindi ovviamente succede di tutto. Ciro Imparato, buona domenica innanzitutto. Buona domenica a te, buona domenica a tutti quanti voi. Ma la tua voce, sì, a te ti ha cambiato la vita, è ovvio. Ma sì, sono tanti anni che lo faccio, tanti anni che la uso, quindi evidentemente non so se l'ha cambiata, è cresciuta insieme a me praticamente, ma la cosa bella è che a un certo momento mi sono detto ma può darsi che la voce cresciuta insieme a me possa essere utile anche a qualcun altro e quindi mi è venuto di scrivere un libro e di creare un metodo che ci consentisse di recuperare quella autenticità che tutti dovremmo avere nel rapporto con gli altri attraverso la comunicazione. Molto giuste e molto belle tutte le cose dette dalla dottoressa Guglielmi e si completa il tutto attraverso la voce, perché la voce esprime allo stesso modo autenticità o non autenticità a seconda che venga accordata, cioè a seconda che noi riusciamo ad essere completamente calati all'interno di quello che diciamo esprimendo una voce che venga dall'interno e quindi avvalori le parole. Ecco. Per fare questo c'è un training. Sì, no, volevo dire, è vero, adesso arriviamo anche al training, al Four Voice Colors, che è la tua tecnica descritta appunto in questo libro, che la tua voce può cambiarti la vita. Ma dobbiamo partire però da un punto, le corde vocali, ognuno c'ha quelle che ha, c'è chi ha la voce così, non è così facile magari metterla a posto, no? Sì. Cosa bisogna fare? Ma sai, una questione è la bellezza vocale, un conto è invece l'autenticità vocale, sono due cose davvero distinte e devo dire che ultimamente per fortuna viene premiato molto tutta quella modalità di espressione anche cinematografica, anche artistica, che privilegia le emozioni vere. Tanto, tantissimo del cinema degli ultimi tempi, ma anche del doppiaggio italiano, da Amendola in poi, da Renato Rizzo in poi, è veramente votato, deputato all'espressione delle emozioni, il che non significa necessariamente avere una bella voce, significa avere una voce che fa emozionare. Amendola non aveva una voce bellissima, ma aveva una voce estremamente espressiva che faceva emozionare, quindi non appena riusciamo a decongestionare quei blocchi che abbiamo nelle corde vocali, che derivano proprio dal fatto di non sapere se le persone ci ascolteranno, e tutta la vita che ci dicono stai zitto, non vali niente, non ce la farai, e questi sono condizionamenti molto importanti a livello psicosomatico che ci bloccano e che noi dobbiamo imparare invece a riprendere in mano per poter riesprimere quello che esprimevamo ad esempio quando avevamo 5 anni. Ecco, quindi il trucco secondo te di prepararsi agli esami recitandoli ad alta voce anche da soli funziona? Ma più che un trucco dovrebbe diventare una vera e propria modalità espressiva, cioè come le persone fanno gli addominali per avere il fisico a posto, allo stesso modo bisognerebbe utilizzare la voce a voce alta, tutti i giorni, in maniera completamente espressiva, sbloccata e dicendo tutto quello che ti viene in mente per almeno mezz'ora. Questo ti mette in condizione di avere delle sinapsi nuove, dei collegamenti nuovi fra la produzione del linguaggio e il modo in cui li esprimi, che ti consentono di avere sicuramente un recupero della tua autenticità e della tua capacità di convincere prima te stesso, innanzitutto, e poi, quando tu sei convinto di delle cose che dici, anche gli altri. Ecco, quindi imparate da Ciro Imparato, è l'unico che potrà ascoltarvi mentre parlate da soli senza prendervi per matti, ma anzi come esatto. Qualcuno. Senti, brevemente, i 4 colori della voce, giallo, verde, blu e rosso, in realtà che cosa indicano? Se possiamo così in qualche modo condensare. Allora, è stato studiato moltissimo il linguaggio del corpo, niente la voce, e quindi il linguaggio, la semantica della voce. Sì. Io ho creato un metodo di riconoscimento delle emozioni e ho pensato che in fondo le emozioni fondamentali che noi abbiamo sono 6, 2 negative, la rabbia e l'apatia, la rabbia è la voce nera, l'apatia è la voce grigia, e 4 positive, la simpatia, voce gialla, l'empatia, voce verde, l'autorevolezza, voce blu, e la passione, voce rossa. Se noi riusciamo, in questo mondo che ci condiziona a essere sempre arrabbiati, tristi, se noi riusciamo con la voce a generare negli altri costantemente emozioni belle, quindi se noi educhiamo la voce a esprimere sempre empatia, sempre simpatia, a quel punto tutte le persone ci restituiranno una voce adeguata e quindi noi e le persone che abbiamo attorno vivremo una vita molto più empatica e molto meno arrabbiata. Un po' come diceva Guglielmi prima, quando noi ci proponiamo agli altri in atteggiamento aperto e non chiuso, automaticamente verremo anche ascoltati, perché anche chi ci ascolta si metterà in quella posizione. Per cui assolutamente, bisogna stare per primi. Certo, sicuramente è un buon modo di usare la voce, bisogna anche imparare a farlo, però insomma il tuo manuale ce lo insegna, ma non soltanto, anche la vita di tutti i giorni basta fare un po' di esercizio. La tua voce può cambiarti la vita, grazie Ciro Imparato, buona giornata. Grazie a te, buona giornata. E buona continuazione, perché so che stai seguendo proprio in questo momento un corso di questo genere, e a questo punto voglio farvi ascoltare, come avevo detto prima, un momento ancora di Camera Caffè, si parla di ancora di linguaggio non verbale, eccolo qua. Non va in mensa perché c'è l'ascensore bloccato? Qualche deficiente per fare uno scherzo ha bloccato i tasti. No, no, mangio qui così salto la pausa pranzo. Già alle 5 sono già in macchina, salto l'ora di punta. Non sapevo che partisse per il weekend, dove va? Da nessuna parte, vado in autostrada. Sono 2 giorni di sciopero dei casellanti, così posso girare in autostrada gratis. Si vede proprio che non vede l'ora di andarsene. Perché? Dalla sua gamba sinistra, punta dritta verso l'ascensore ed è già pronta a correre fuori di qui. Ah, anche lei conosce la comunicazione... Non verbale? Vedi Paolo, il linguaggio non è fatto solo di parole, si può dire qualcosa anche senza parlare. Lo so, infatti Pino con un rutto riesce a dire Alfa Romeo Sport Wagon, di solito quando arriva Wagon non gli viene anche da vomitare. Non intendevo quello, intendevo dire che spesso è il nostro corpo a parlare. Ah, lo conosco bene, Budello per esempio... Quello, non mi riferisco alle flatulenze, ma a segnali lanciati dal nostro corpo, da come muoviamo le braccia o da come muoviamo il viso quando ci parlano. E da tutte queste cose si capisce che uno sta mentendo. Certo, se per esempio uno si gratta i capelli mentre parla. Ah, i pidocchi. Può potrebbe, ma tendenzialmente sta mentendo. Un'altra cosa è giocherellare con il bicchiere del caffè. Serve a deviare l'attenzione di chi ci ascolta nella speranza che non si accorga che stiamo dicendo una bugia. Oh, e chi dice la verità? Tiene le braccia a cerchio, mostra spesso le mani, tocca lo spazio circostante, si appoggia alle pareti. Insomma, ha un po' tutto sotto controllo. Ma comunque, se le interessa così tanto, perché non lo chiede a Geller? Ma perché oggi non c'è... E maledetti pidocchi. La comunicazione non verbale in realtà si grattava la testa, ma a questo punto vediamo se possiamo comunicare anche in un altro modo. Formaggio Montasio DOP, con il contributo della Regione Veneto. Vi presenta Il Gastronauta. I romani lo sapevano, per prendere decisioni importanti prima bisognava organizzare un buon banchetto. Ciao Davide Paolini, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi qua. Comunicare con il cibo è tutto, si può fare? Beh, io credo che il cibo sia un medium di comunicazione innanzitutto, perché comunica in tante maniere. Tu pensa ad esempio alle cene d'affari, le cene d'affari sono un modo di comunicare. Il cibo è un modo per sedurre, le cene galeotte, e poi potrei ancora continuare. Quindi il cibo è comunicazione, è un medium straordinario, un medium dei territori anche. Quanti territori comunicano con un cibo, con un prodotto, con una ricetta? I casi sono tantissimi in Italia, dalle Alpi fino alla Sicilia. Se prendiamo regione per regione, addirittura forse provincia per provincia, abbiamo sempre qualcosa che comunica, o una ricetta famosa, un prodotto famoso. Beh, pensiamo, quando si pensa, non so, a Bologna, tortellini, se si pensa alla Sicilia si pensa a tantissimi prodotti, ad esempio al cioccolato di Modica. Dietro ogni prodotto, questo prodotto comunica con una leggenda. Se facciamo caso ai prodotti più noti che sono diventati famosissimi, dietro hanno sempre una leggenda che ha comunicato, quindi un fatto straordinario. Pensiamo al lardo di Colonnata. Il lardo di Colonnata perché comunica, perché è famoso? Perché dietro a questa leggenda di questi cavatori che a fine 800 furono così isolati per uno sciopero, per una settimana, e poi scoprirono che quel lardo che si era portato da casa andava dentro queste cave di marmo e diventava più straordinario di prima. E questa leggenda lo ha fatto diventare famoso, il cioccolato di Modica, la storia degli Aztechi che portavano il cacao attraverso gli spagnoli in questa cittadina siciliana. Poi potrei continuare ancora per ore e ore. Senti, e un altro modo per comunicare ce l'hanno gli chef, quando preparano i piatti che sono anche molto belli da guardare. Le due cose vanno sempre di pari passo o hai trovato anche piatti molto belli da guardare ma meno gustosi da assaporare? Beh, di solito non è che piatti così molto, molto curati dal punto di vista estetico poi rendono molto dal punto di vista gustativo, però ci possono essere anche delle coincidenze molto fortunate, ma io credo che non siano le belle forme, io credo che sia molto la memoria che agisce su questo, cioè la memoria secondo me è il modo migliore per ricordare e quindi per poi comunicare. Cioè, ognuno di noi ha dei ricordi anche da bambino che poi riflette quando vede magari quello stesso cibo. Quindi sì, il fatto estetico è importante, però secondo me ci sono fatti nel nostro cervello molto ma molto più importanti. Dovendo scegliere un vino per conquistare qualcuno, tu cosa sceglieresti? Beh, senza conoscerne i gusti ovviamente dell'altra persona, per cui bisogna andare alla cieca. Ma io credo che con lo champagne non si sbagli mai. Forse si può sbagliare una volta su 10, molto più facile sbagliare con un vino rosso o con un vino bianco, perché magari la persona che hai di fronte non ama i rossi o non ama i bianchi, ma io credo che sullo champagne, sulle bollicine in genere non si sbagli quasi mai, oppure come dicevo ci sono le eccezioni che confermano la regola, però credo che lo champagne sia veramente universale, così pure le bollicine italiane, per carità. Dico champagne perché forse dal punto di vista della leggenda, dal punto di vista della comunicazione, forse è quello che meglio di ogni altro ha comunicato il proprio territorio e le proprie realtà, quindi credo che se c'è un Oscar della comunicazione sicuramente questo vada allo champagne. Sicuramente, grazie Davide, buona domenica. A presto, ciao. Alla prossima. Alla prossima sicuramente, 11.27 è il momento delle previsioni del tempo e poi giochiamo con il mistero in 24 minuti per voi fino a 1000 euro da spendere sulla Feltrinelli.it. Il riposo del guerriero. Tutto nelle tue mani, tecnologia e piacere di guida a portata di dita. Nuova Nuova Punto My Life, finiture piano black, motori Euro 5, radio CD MP3, climatizzatore, sistema start and stop, ESP e Blue Emmy Tom Tom, tutto di serie. Nuova Punto My Life a 9.900 euro con la trasparenza del prezzo vero Fiat. Condizioni valide con il contributo dei concessionari Fiat, solo con ritiro usato che vale zero o senza ritiro usato fino al 31 dicembre. Ti aspettiamo anche sabato 20 e domenica 21. Nuova Punto My Life, high tech, human touch. Ciao ciao! Università di Pisa e Fondazione Cassa Risparmio Lucca presentano i Master in Gestione del Rischio nei Mercati Finanziari e Corporate Finance and Banking. Il 95% dei nostri studenti trova lavoro entro un anno. Investi nel tuo futuro. Opportunità di borse di studio e alloggi gratuiti. Iscrizioni entro il 9 dicembre. www.ec.unip.it. La grande musica per le aziende. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, istituzione fra le più prestigiose al mondo, ha creato speciali format per le imprese interessate a dare un tocco di classico alle proprie attività. Associa il tuo brand al concerto di Natale. Un elegante evento istituzionale come momento di scambio di auguri nella splendida cornice dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Visita il sito santacecilia.it/aziende e scopri tutte le nostre offerte. Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Aspettatevi le migliori performance. Dall'8 novembre al 31 gennaio gioca d'anticipo con Peugeot. Richiedi il check-up invernale, cambio filtro e olio più 10 controlli a soli 79 euro. Puoi vincere ogni mese uno scooter Geopolis 300 e partecipare all'estrazione finale di uno scooter Geopolis 400. Operazione valida sui veicoli Peugeot a esclusione di Peugeot Boxer nei centri riparazione e officine autorizzate aderenti. Estrazione entro il 28/2/2011, montepremi 14.808 euro IVA esclusa. Regolamento su www.checkupandwinpeugeot.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. La parte più consistente di una perturbazione atlantica è arrivata nella notte al centro-nord, con precipitazioni importanti che dal nord-ovest si estenderanno entro la fine del giorno anche al nord-est e su Toscana e Lazio. Oggi parziali schiarite esisteranno solo al sud, altrove cielo molto nuvoloso coperto. In mattinata poi oggi soprattutto al nord-ovest e su Sardegna e Toscana, ma in estensione anche al Triveneto e al Lazio. Possibili rovesci in Toscana e Sardegna e neve sulle Alpi oltre gli 800-1200 metri. Nel pomeriggio migliora lentamente sull'estremo nord-ovest. Rovescio temporale anche forti sulla Toscana, in propagazione poi verso sera a Emilia, Triveneto e Lazio. Qualche pioggia anche su Marche e Campania. Nella notte peggiore al sud. Temperature massime senza variazione di rilievo, venti moderati meridionali. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it e per il meteo tutto. Allora, dove sei stata di bello? Alle terme. Ah, e com'è andata? Tutto bene. L'Italia è ricca di benefiche acque termali, un privilegio fatto di salute e benessere che una natura generosa ha donato a ogni italiano. Vieni alle terme, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Vieni su letermeditalia.it. Tutto bene, alle terme. Sapete la novità? Ho comprato la nuova Citroen C3 approvata a 4 ruote, Euro 5, ESP, 5 anni di garanzia e al quarto anno in Citroen me la valutano il 10% in più rispetto alla quotazione 4 ruote. Wow, colore? Boh. Una Citroen così puoi comprarla a occhi chiusi. Scopri i 18 modelli della gamma Citroen approvata a 4 ruote. Adesso il tuo usato vale il 10% in più. Scade il 31 dicembre. Info su citroen.it. Ti aspettiamo anche domenica 21. Pubblicità. Per tutti quelli che lavorano, per tutti quelli che hanno la partita IVA, che banca ha creato Conto Deposito Business. Oh yeah! Il 2,25% sulle somme depositate per un anno e interessi in anticipo. Condizioni valide fino al 31 dicembre 2010. Fogli informativi su chebanca.it. Che banca! La banca per tutti del gruppo Mediobanca. Oh yeah! Buongiorno, sono Christian Boiron, presidente del gruppo Boiron. Il nostro medicinale per i sintomi influenzali è numero uno in Francia ed è presente in 60 paesi del mondo. Sai perché? Perché risolve i sintomi rapidamente. È omeopatico e quindi senza effetti collaterali, così può essere utilizzato da tutti. Parlane con il tuo medico o il tuo farmacista. Scegli anche tu Boiron, leader mondiale dell'omeopatia. Azienda familiare da oltre 80 anni, con più di 4.000 persone nel mondo. Sintomi influenzali? Prova l'omeopatia. Il riposo del guerriero. Ci siamo pronti con i nostri 1000 euro da regalarvi, ammesso che riusciate a risolvere il nostro mistero in 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. Per risolverlo avrete degli indizi musicali, più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. Partiamo da 1000 euro da spendere sulla feltrinelli.it. Il numero verde per prenotarvi 800 24 0024 e questo è il primo indizio. Sono seduti lì vicino a me con davanti due cocche e due caffè. Cambiare tutto questo mondo che non va. Almeno il finale c'è, insomma, i quattro amici sono tornati, anche se più giovani ovviamente. I quattro amici al bar di Gino Paoli, il nostro primo indizio, Sergio dalla provincia di Alessandria. Eccoci qua. Buongiorno. Secondo me... Subito così la risposta, quindi non scendiamo neanche. Sì, provo a dare la risposta subito. Sì. Vai, Sergio. Secondo me la risposta è la notizia che i Beatles siano sbarcati nella musica digitale su iTunes. Grazie Sergio, buona giornata, ciao. Grazie, buongiorno. Ciao, ciao. Cesare da Rovigo, buongiorno. Buongiorno. Ciao Cesare. Sergio mi ha bruciato. Sergio ti ha bruciato. Sì. Altra risposta, allora. Altra risposta, dico gli immigrati di Brescia che sono scesi dalla gru. Grazie, ciao Cesare, buona giornata. Ciao. Paolo da Firenze, oggi corriamo veramente, ciao. Un altro bruciato. Dai, tutti con la stessa idea. Sì, già da ieri pomeriggio mi era venuto in mente. Quindi cosa facciamo? Quando ho letto sul sito la cosa, e quindi facciamo. Potremmo fare i quattro amici che erano i quattro alleati del... il popolo della libertà che non stanno più insieme, non lo so. Potrebbe essere. Grazie Paolo, buona giornata. Ciao, siamo ancora 1000 euro. Davide dalla provincia di Varese. Oh, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Beh, perbacco, passiamo allora al secondo indizio, così magari scendiamo un po' a stravolgere le risposte. Attuale. Bravo, secondo indizio, eccolo qua. Qui il secondo indizio, 500 euro, un testo molto chiaro, quello di Caparezza, di La Grande Opera. Davide. Io pensavo ad un soggetto, non tanto una persona, ma quanto un movimento politico, sì, potrebbe direi, essere. La Lega. E questo in riferimento all'intervento di Saviano che ha messo in luce alcuni probabili collegamenti tra la Lega, questi amici che erano partiti con l'intenzione di salvare il mondo, ma che poi si sono ritrovati anche loro in una condizione di collusione con mafie e cose di questo genere. Sentiremo poi la lista di Maroni domani nel programma, insomma, chi lo ascolterà, ma esatto, penso... Esatto, proprio riferimento a quello. Io tengo il soggetto, la Lega. Benissimo, Benissimo. Davide, grazie. Buona giornata, grazie. Buona domenica. Come sapete, magari la risposta potrebbe essere già stata data, oppure assolutamente no. Lo scopriremo allo scoccare del 24esimo minuto, 800 24 00 24, Francesca, da Firenze. Ciao. Ciao. Ciao, ascolta, la mia idea era il matrimonio reale, Camilla, Carlo e i due futuri sposi. Non lo so, buttata lì perché la mia idea era i Beatles, ma è strabruciata. È strabruciata oggi. Infatti, questa proprio sono cose di pari. Grazie Francesca, buona giornata. Prego, buona giornata. Luca da Rimini, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, domenica. Luca. Buona domenica anche a te. Allora, abbiamo 500 euro in questo momento. Io purtroppo sono rimasto assolutamente bruciato, anch'io come tutti. Vi siete scottati, volete la cremina oggi. Io mi ero fissato su un argomento che è già stato dato, quindi mi attacco forse anziché al fatto di cronaca e ai soggetti, mi attacco all'attrezzo, la gru. La gru. Ecco, secondo te quindi erano i 6 operai che poi sono rimasti 4, appunto. Sì, i 6 ragazzi che sono rimasti sulla gru, sì. Esatto, ti ringrazio molto. Ciao, grazie a voi, ciao buona Luca, buona giornata. Ciao Rosy da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Rosy. Sì, allora io avrei pensato averti cenato, che se... è stato in questi giorni, certo. Non so se è terminato o meno. Così, grazie Rosy, buona domenica, ciao. Ciao. Così diretta, è bello quando non neanche voglio neanche ascoltare l'indizio, lo so, è così, però gli indizi servono, è vero, cade il premio, scende, però potrebbero servire a così aumentare e allargare gli orizzonti. Mirella dalla provincia di Brescia. Ecco, buongiorno. Ciao Mirella. Senta, io avevo pensato invece al risultato alle primarie di Milano. I 4 che hanno partecipato alle primarie con la vittoria di Pisapia. Che nessuno si aspettava. Boeri, Pisapia, Ovida e Sacerdoti. Grazie Mirella, buona giornata. Sì, grazie. La discussione c'è stata lì, perché insomma, forse avete seguito la vicenda, e l'outsider, diciamo così, alla fine è stato quello che ha preso più preferenze. Roberto dalla provincia di Milano. Buona domenica. Roberto, anche a te. Cosa vogliamo fare? Abbiamo ancora degli indizi qua? No, la risposta è i Beatles, ma volevo essere più originale. No, il libro quello a fumetti presentato in settimana alla Feltrinelli. Beatles a fumetti, era l'iniziativa. Grazie Roberto, buona giornata. Ciao. Niente, non mi discosta nessuno da questo o dalla gru. Anna Maria da Frosinone, buongiorno. Buongiorno. Eccoti lì. Allora, Anna Maria, cosa facciamo qua? Facciamo che diamo gli aggiornamenti sul traffico? D'accordo, poi ne parliamo. Poi ne parliamo, però rimani lì e non scappare. Strade in diretta. Sulla 14 Adriatica, traffico rallentato per un incidente tra Bologna Fiere e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Traffico intenso invece intorno a Genova. Sulla 12 si formano code in uscita a Genova Est in entrambe le direzioni. Occorre guidare con prudenza per le cattive condizioni meteo, continua a piovere infatti su gran parte delle regioni nord-occidentali e su parte del centro Italia. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono tratti allagati in entrata a Capriate sulla carreggiata verso Milano. Infine ancora nebbia sul tratto appenninico dell'Autosole, prudenza tra Rioveggio e Barberino. Ed è tutto, il prossimo appuntamento è tra mezz'ora. Un mistero in 24 minuti. Allora Anna Maria... Sì, dimmi. Cosa vuoi fare? La notizia subito. Niente indizi, zero, proprio zero, risposta. No. Vai Anna Maria. La dico? Sì, sì, certo. Allora, io ho pensato a Gino Paoli che ha detto che Carla Bruni canta meglio di Mina Il cielo in una stanza. Grazie, beh, scritta lui, può dire quello che vuole, giustamente. Uno poi la interpreta come vuole. Certo, è un po' rivoluzionario. No, cioè, no, non è rivoluzionario, almeno Carla Bruni una cosa la sa cantare, ecco. Grazie Anna Maria, forse canta Ciao. Meno bene le sue canzoni. Ettore dalla provincia di Milano, forse non sono così straordinarie. Ettore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Per me la notizia è quella dei segretari, i ministri e i sottoministri del governo Berlusconi che si sono dimessi, quelli di Futura Libertà. Grazie Ettore. Grazie a voi. Buona giornata. Ciao. Massimo da Ravenna. Eccoci. Allora Massimo. Abbiamo già bruciato tutte le risposte. Allora cosa vogliamo fare? No. Ne facciamo un'altra, facciamo una cattura di Iovine. Quindi passiamo al terzo indizio? Perdonami, però avevi dato la risposta, ecco. Sì, la cattura di Iovine. Sì, siamo a posto. Non so cosa c'entrasse col 4, però i 4 amici al bar, però, vabbè. Per dare una risposta, le hanno bruciate tutte. Che avevi in mente, insomma, quello era, ecco, stavo pensando. Grazie, Massimo, ciao. Che poi quella che forse ha fatto ricucire un po' i rapporti anche tra Saviano e Maroni. E abbiamo Antonio da Torino, giusto? Sì, Antonio. Sì, buongiorno. Ciao Antonio. Oggi nessuno vuole sentire gli indizi, tutti con le risposte. Sarà la pioggia? No, cosa succede? Infatti, qua Torino è molto nuvoloso. Comunque, anche io avrei dato i 4 immigrati sulla gru, ovviamente. Credo che sia proprio quella. Immigrati sulla gru, quindi, che sono scesi. Sì, i 4 immigrati che sono scesi dalla gru e gli egiziani che forse vengono disperiti. Ah sì, beh, mi sembra che ci sia stata, no, l'espulsione. Sì, è stata l'espulsione, sì. Esatto. Non so, quindi non può essere data la stessa, giusto? Non peraltro, potresti anche dare la stessa risposta, ma se fosse quella giusta non porteresti a casa niente. Ah, ok, perfetto. Quindi, non lo so, ci ascoltiamo un po' di musica, facciamo altro inizio. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Allora, siccome non hai dato in realtà una risposta, perché avevi già questa, possiamo sentire il terzo indizio. Colgi la prima vela, colgi la prima vela, colgi la prima vela. Ah, bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Colgi la prima vela, colgi la prima vela, colgi la prima vela. Ah, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va. La prima vela. Antonio, eccolo qui il terzo indizio, siamo a 300 euro. Sì, diciamo che mi ha un po' aperto la mente questo indizio. Vedi? Vabbè, cioè ci provo, ho pensato a mela e poi quindi ho pensato ai 25 anni dell'uscita di Windows. Grazie Antonio, ciao, buona giornata. Ciao, è bella quell'associazione tra Windows e la mela che è Apple, esattamente la concorrente, però ci può stare. Massimiliano dalla provincia di Terni. Ciao, buongiorno. Ciao Massimiliano. Allora, senti, allora io, va bene, mi butto anch'io, diciamo, l'avevo un po' intuito dal primo indizio, secondo me è la pubblicazione su iTunes e tutta quanta l'opera dei Beatles. L'hanno già detto, però. Ah, già detto. Già Massimiliano, detto. Sì. Non ho sentito, va bene, allora. E allora solo questa avevi in mente, in tasca sì, c'era solo questa. Poi con Apple ha rinforzato poi questa intuizione. Grazie Massimiliano, ciao. Luisa dalla Spezia. Buongiorno. Ciao Luisa, eccoci. Buongiorno, io sono stata bruciata chiaramente come tutti gli altri, molti altri. L'ultimo, unico tentativo che potrei fare sono le dimissioni della Farfagna. Eccole qua. Così, perché dice sì. Una notizia talmente... Bella che così sera vai, ho pensato a lei, sono stata bruciata sui 4 le dimissioni delle... Certo, anche lì, insomma, di notizie ce n'erano tantissime sì, questa infatti, settimana. Poi uno si perde nel marasma delle... È vero Luisa, grazie però. Così abbiamo, abbiamo messo, aggiunto un tassello anche almeno come risposte. Ecco. Ho voluto far uscire, vi ho bruciati tutti oggi, ho voluto far uscire il sole in questa giornata uggiosa, hai capito? Ecco, quindi almeno vi siete bruciati con un sole virtuale e non quello reale. Grazie Luisa, ciao. Niente, buona giornata. Antonella, anche lui e lei da Ravenna. Eccomi, buongiorno. Vedevi l'altro ascoltatore dalla finestra per caso? No. Ascolta, non mi è rimasto molto, io dico la mancata vincita della Ferrari del Gran Premio. Ti è spiaciuta? Un pochino. Sei una ferrarista accanita? No, accanita no, direi di no, però insomma mi fa sempre piacere se vince. Beh, sicuramente, da italiana tu dici ti fa piacere questo. Sì, quindi la mancata vincita, la polemica con Montezemolo, eccetera. Qua. Grazie Antonella, ciao, grazie. Ciao, grazie. È successo che è finito il tempo, ho sentito bene, è giù caduta anche la linea, allora dobbiamo chiudere, dare una risposta, ammesso che ci sia stata una risposta. Non lo so, abbiamo due probabili vincitori, Sergio da Acquiterme, ciao Sergio. Ciao, ciao. Per te sarebbero 1000 euro, era la prima telefonata, invece c'è Luca da Rimini. Ciao, sono qua. Eccoci, saremo 500 euro se non sbaglio Luca per te. Allora, la risposta giusta, la data, Sergio. Mi dispiace Luca, anche se ci stava molto la questione degli operai sulla gru, era voluto, io insomma cercavo di spostare verso qua proprio la soluzione, ma non era quella giusta. Grazie davvero Luca. Grazie a voi. Buona giornata, ciao. Anche a voi. Sergio, sei stato il primo, il più fortunato, è stato chiamato per primo, hai sentito che... Sono felicissimo di essere stato veloce, perché la sapevano in tanti. Noi siamo felici per te. Io ho detto, ma chissà questa notizia, se se la ricorderanno. A quanto pare la sapevate tutti perfettamente, è vero. Finalmente dopo molti anni, finalmente per qualcuno, e dopo tanti anni, tutta l'opera, ecco qui il secondo indizio, la grande opera dei Beatles è stata pubblicata anche su iTunes. I quattro amici erano i Fab Four, ovviamente, cioè i Beatles, certo, con gli Mamela, per due motivi. La mela era il simbolo anche dell'etichetta discografica dei Beatles, esatto, per cui ci stava insieme. E gli altri indizi non li avete neanche ascoltati, ma non sono serviti. 1.000 euro per te, complimenti ancora. Ciao Sergio, grazie. Grazie, ciao, ciao, ciao. E ciao a tutti, ci sentiamo domenica prossima, ovviamente. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Margherita Aina, a Paolo Corleone in regia. L'accento è sempre un disastro, non so mai dove inserirlo, ma ce l'ho fatta anche questa volta. Ci sentiamo ovviamente domenica prossima alle 10 puntuali con il riposo del guerriero. Buona domenica da Stefano Gallarini.